ciabatte, ci siamo rotti le palle di sentirci dire quanto questa America sia grande, sia migliore ogni cantante. Come un sì, forse posso proporre Dante, grattacieli contrapposti alle poesie più false. Mentre noi ci vergogniamo di chiamarci di cognome Bacio Grandi, ci sogniamo il ghetto come il posto migliore per starci. Inventiamo nuovi passi per atteggiarci di camminare, e rifiutiamo baci e abbracci per andare ad impugnare atteggiamenti abbandonati e condannati d'altro scena da persone intelligenti. Una regola che io non so chi abbia stabilito, che per essere figo bisogna comportarsi come se si fosse in guerra con il mondo intero per nemico. Certo si è sentito che da adesso le trincee sono già dette, che è assolutamente necessario che ci sia presente molta gente. A volte crescono i dubbi generando setti verdi, fra prendere e rendere enigmi, ci pari di ascolti e non senti, ti cerchi fra movimenti costanti, fra imprevedibili passi alla ricerca di ciò che vorresti. E a tratto ti svegli dai sogni, ti si aprono gli occhi mettendo a fuoco i tuoi incubi di un ingenue, speranze cercate ma perse in un momento incostante di un umile amante pronto a proteggere niente. Se niente è la fonte della mia sorgente, sarò presente, sarò paziente dentro una vita frenetica, resto cosciente che il tutto analogica che sfuma e si consuma quando quest'ultima limita ciò che mi stimola e frena, la mia passione, la voglia di averti vicina. Musica racchiusa in un'unica sigla, toscani classici, una vita passata da mettere dentro una strofa. C'hanno monti di merda per scendere in campo, io di tanto in tanto arrangio di quanti quando sono stanco di un branco, bimbi gelosi con occhi bavosi al mio banco, che si atteggiano e camminano soffocando, la vita non è un video, prova a chiederti il motivo per il quale la scena sta diventando un suicidio. Di che c'è in giro, non ti preoccupare, di chi vale o chi non vale, di chi sale o chi va male. Noi non facciamo la storia, coperti di quattro a scuola per imparare memoria una strofa. Noi più pischi di certi cristi ormai già visti in crisi di previste, perché non fanno più soldi quei disi rimasti a bocca aperta per anni, vorrebbero insegnarci visto che ci vedano ignoranti, e dagli torti tranne qualche eccezione di un mezzo passo insegnante. Cazzo, arrivederci, grazie. È la vita che verrà, chi vivrà vedrà, un via Pino Star resta tale in qualunque città. Qua non si sa come va a finire, o adeguarsi e colpire o stare zitti e subire. Scendere in campo ho concimato tanto, vorrei che il grano cresca alto, ma quando? Resto in silenzio e ascolto il vento, formulo concetti sul tempo, spazi che riempio. Rime sample come vizio, maestrelli come Fabrizio, pagano più di Maurizio, terre del Bisenzio, ti zitto, cosa parli di me se manco mai visto? Ah, Avellino per un mezzo, Cittino per quell'altro, più un quarto Mantovano e ha ottenuto Marco, portato in alto, quando sono alieni, toscani, pratesi, ci vedi, ci vedi?